ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. 12ª puntata. Il pranzo si concluse in silenzio. Sharikov tirò fuori da una tasca una papirosa ammaccata e si mise a mandar fumo. Finito di bere il caffè, Filip Filipovic diede un'occhiata all'orologio, ne premette la molla e l'orologio dolcemente batté le 8:15. Secondo la sua abitudine, Filip Filipovic si appoggiò allo schienale gotico e si allungò per prendere il giornale dal tavolino. «Dottore, la prego, lo accompagni al circo!» «Solo, per l'amor di Dio, controlli che nel programma non ci siano gatti!» «E come potrebbero lasciare entrare in un circo simili canaglie?» osservò cupo Sharikov scuotendo la testa. «Tanto lasciano entrare chiunque là dentro!» ribatté ambiguo Filip Filipovic. «Che cosa danno?» «Al Solomonsky», Bormental si mise a leggere, «ci sono i 4 Jussems e l'uomo del punto morto». «Chi sono questi Jussems?» si informò sospettoso Filip Filipovic. «Ah, Dio solo lo sa, è la prima volta che li sento nominare». «Allora è meglio dare un'occhiata a Nikitin. È indispensabile che tutto sia perfettamente chiaro». Al Nikitin, elefanti e il limite dell'umana destrezza». «Bene, che ha da dirmi a proposito degli elefanti, caro Sharikov?» domandò diffidente Filip Filipovic a Sharikov. Quello si risentì. «Cos'è? Crede che non capisca? I gatti sono un'altra questione, ma gli elefanti sono animali utili», rispose Sharikov. «Allora benissimo, visto che sono utili, vado a dar loro un'occhiata. È necessario obbedire ad Ivan Arnoldovich e non ci si deve lasciar coinvolgere in nessuna conversazione al buffet. Ivan Arnoldovich, la prego vivamente di non offrire birra a Sharikov». 10 minuti più tardi, Ivan Arnoldovich Sharikov, vestito con un berretto a becco d'anatra e un cappotto di pannolano con il bavero rialzato, andarono al circo. Nell'appartamento calò il silenzio. Filip Filipovic si ritirò nel suo studio. Accese la lampada sotto al pesante paralume verde e nell'enorme studio scese una gran pace. E cominciò a misurare la stanza a lunghi passi. A lungo splendette calda la punta del sigaro di una fiamma verde pallido. Il professore infilò le mani nelle tasche dei pantaloni e un pensiero opprimente tormentava la sua fronte stempiata di scienziato. Faceva schioccare le labbra, canticchiava tra i denti del Nilo al Sacro Lido e borbottava qualcosa. Alla fine depose il sigaro nel posacenere, s'accostò a un armadio fatto completamente di vetro e l'intero studio risplendette delle 3 lampadine fortissime appese al soffitto. Dall'armadio, dal 3° ripiano di vetro, Filip Filipovic tirò fuori un barattolo stretto e accigliato si mise a esaminarlo alla luce delle lampadine. Nel liquido denso e trasparente galleggiava, senza raggiungere il fondo, un piccolo batuffolino bianco estratto dalle profondità del cervello di Sharikov. Stringendosi nelle spalle, storcendo le labbra e bofonchiando, Filip Filipovic lo divorava con gli occhi, come se in quel bianco batuffolo galleggiante volesse individuare la causa degli eventi sorprendenti che avevano completamente ribaltato la vita dell'appartamento di via Prechistenska. È molto probabile che quest'uomo di grande conoscenza riuscisse a individuarla. Perlomeno dopo aver esaminato a sazietà il peduncolo del cervello, tornò a nascondere il barattolo nell'armadio, lo chiuse a chiave, la chiave la ripose nella tasca del gilet ed egli stesso s'abbatté sulla pelle del divano con la testa incassata tra le spalle e le mani infilate ancor più profondamente nelle tasche della giacca. A lungo tormentò un secondo sigaro, masticandone completamente l'estremità, e alla fine, in completa solitudine, illuminato da un riflesso verdognolo, come un canuto Faust, esclamò: «In nome di Dio, forse mi deciderò a farlo!» Nessuno rispose a queste sue parole. Nell'appartamento era cessato ogni suono. In vicolo a Bukov alle 11, com'è risaputo, cessa qualsiasi movimento. Solo di quando in quando, raramente, risuonavano i passi lontani di qualche ritardatario, picchiettavano di là dalle tende e si estinguevano. Nello studio, sotto le dita di Filippa Filippovich, la molla a ripetizione suonò teneramente nel taschino. Il professore impaziente attendeva il ritorno di Bormental e Sharikov dal circo. Si ignora quel che Filippa Filippovich decise. Nel corso della settimana successiva non intraprese nulla di particolare e forse, come conseguenza di questa sua inerzia, la vita dell'appartamento si colmò di avvenimenti. Circa 6 giorni dopo la storia dell'acqua e del gatto, dal comitato si fece vivo per Sharikov il giovanotto che era poi risultato essere una donna e gli consegnò i documenti, che Sharikov si ficcò immediatamente nella tasca della giacca per chiamare subito dopo il dottor Bormental. Bormental! «No, lei a me mi chiama con nome patronimico, per favore», rispose Bormental cambiando espressione. Va detto che in quei 6 giorni il chirurgo aveva trovato almeno 8 volte il modo di litigare con il suo allievo e che l'atmosfera nelle stanze di vicolo Abukov era opprimente. «E allora pure lei chiami me con nome patronimico», rispose Sharikov seguendo una sua logica. «No», tuonò dalla soglia Filip Filipovic. «Non permetto che nel mio appartamento nessuno la chiami con quel nome patronimico. Se desidera che si smetta di chiamarla familiarmente Sharikov, tanto io che il dottore la chiameremo signor Sharikov». «Io non sono un signore. I signori sono tutti a Parigi», abbaiò Sharikov. «Questa è opera di Schwonder», gridò Filip Filipovic. «Va bene, d'accordo, farò i conti io con questo mascalzone. Nel mio appartamento, almeno finché mi ci trovo io, non ci saranno altro che signori. In caso contrario, uno di noi due se ne dovrà andare. E la cosa più probabile è che tocchi a lei. Oggi metterò un'inserzione sul giornale e mi creda, le troverò una camera». «E certo, io sono così scemo da andarmene da qui», rispose Sharikov scandendo le parole. «Come?» domandò Filip Filipovic. E il suo volto si stravolse al punto che Bormental gli volò accanto e con gesto tenero e inquieto lo prese per una manica. «Senta un po', non faccia lo sfrontato, Monsieur Sharikov!» E Bormental alzò alquanto la voce. Sharikov arretrò, tirò fuori di tasca 3 pezzi di carta, uno verde, uno giallo e uno bianco, e indicandoli con le dita disse: «Ecco qua, sono membro dell'associazione inquilini. E la superficie abitabile che mi spetta è proprio nell'appartamento numero 5, presso il locatario responsabile Probazhensky, nella misura di 12 metri quadri». Sharikov rifletté un attimo e aggiunse una parola che Bormental macchinalmente registrò come nuova nel proprio cervello: favorisca. Filip Filipovic si morse il labbro e incautamente proferì: «Giuro che una volta o l'altra sparerò a questo Schwonder!» Sharikov accolse queste parole col massimo grado di attenzione e curiosità, come si poté vedere dai suoi occhi. «Filip Filipovic, forsichtig!» intervenne Bormental con fare ammonitore. «Beh, sa, se si commettono simili infamie!» gridò Filip Filipovic in russo. «Tenga presente, Sharikov, signore, che io, se lei si permetterà anche una sola battuta insolente, la priverò del pranzo e in generale dell'alimentazione in casa mia. Vada per i 12 metri quadri, ma da quelle carte verde rana non risulta certo che io le debba dare da mangiare». A questo punto Sharikov si spaventò e spalancò la bocca. «Non posso restare senza nutrimento», prese a borbottare. «Dove andrò a trovare il mio mangime?» «Allora si comporti come si deve», dichiararono a una voce 2 sculapi. Sharikov si quietò notevolmente e per tutto il giorno non causò alcun danno a nessuno, con l'eccezione di se stesso. Approfittando di una breve assenza di Bormental, si impossessò del suo rasoio e si squarciò uno zigomo, in modo tale che Filip Filipovic e Bormental gli dovettero mettere dei punti sul taglio, cosa per cui Sharikov a lungo ululò, piangendo a dirotto. La notte successiva, nello studio del professore, nella penombra verde, sedevano in due, lo stesso Filip Filippovic e il fedele Bormental, a lui così legato. In casa tutti ormai dormivano. Filip Filippovic indossava la sua vestaglia celeste e le pantofole rosse, mentre Bormental era in camicia e bretelle azzurre. Tra i due medici, su un tavolino tondo, accanto a un album rigonfio, c'era una bottiglia di cognac, il piattino con le fettine di limone e la scatola dei sigari. Gli scienziati, dopo aver riempito di fumo l'intera stanza, stavano discutendo accalorati degli ultimi avvenimenti. Quella sera Sharikov, nello studio di Filip Filippovic, si era appropriato di due banconote che stavano sotto a un fermacarte. Aveva abbandonato l'appartamento, vi aveva fatto ritorno tardi e completamente ubriaco. Il che non era ancora niente. In sua compagnia c'erano due individui sconosciuti che si erano messi a far baccano sulla scala principale e che avevano espresso il desiderio di trascorrere la notte da Sharikov. Detti individui si erano allontanati solo quando Fyodor, che era presente alla scena con il soprabito indossato direttamente sulla biancheria, aveva telefonato al 45esimo distretto di polizia. Gli individui se l'erano filata immediatamente, non appena Fyodor aveva riappeso la cornetta. Dopo l'uscita di scena dei due individui, s'ignora dove fossero andati a finire il posacenere di malachite di Filip Filippovic che stava sulla mensola dello specchio in anticamera, il berretto di castoro di Filip Filippovic e il suo bastone, sul quale era scritto in oro «Al caro e stimato Filip Filippovic, gli assistenti riconoscenti nel giorno», seguito dalla cifra in lettere romane 25. «Chi erano?» Filip Filippovic, stringendo i pugni, diede addosso a Sharikov. Questi, dondolando e stringendosi alle pellicce, borbottò che quegli individui gli erano ignoti, che comunque non erano dei figli di cagna, ma delle brave persone. «La cosa più sorprendente è che comunque erano tutti e due ubriachi. Come hanno fatto?» si stupiva Filip Filippovic, guardando il punto del portabastoni dove un tempo aveva trovato posto il ricordo del suo giubileo. «Degli specialisti», aveva chiarito Fyodor andandosene a dormire con un rublo in tasca. Sharikov aveva negato categoricamente di aver preso le due banconote. Nel farlo aveva bofonchiato qualcosa di confuso a proposito del fatto che mica c'era solo lui nell'appartamento. «Aha, è stato forse il dottor Bormental a sgraffignare le banconote?» aveva chiesto Filip Filippovic a voce bassa ma con un tono da far paura. Sharikov aveva barcollato, aveva spalancato gli occhi completamente ubriachi e aveva buttato lì una sua ipotesi. «Ma forse li ha presi Zinka?» «Come sarebbe?» s'era messa a gridare Zina materializzandosi sulla soglia, tenendosi chiuso sul petto con una mano il golfino sbottonato. «Ma come può?» Il collo di Filip Filippovic era soffuso di un colorito rossastro. «Tranquilla, Zina», proferì tendendo una mano verso di lei. «Non ti agitare, adesso sistemeremo ogni cosa». Zina era scoppiata immediatamente a piangere, increspando le labbra, e la mano aveva cominciato a saltellarle sulla clavicola. «Zina, ma non si vergogna, chi mai potrebbe pensare una cosa simile? Pah, che infamia!» aveva esclamato Bormental smarrito. «Zina, sei una sciocca, che Dio mi perdoni», aveva cominciato a dire Filip Filippovic. A quel punto il pianto di Zina si era interrotto e tutti erano rimasti in silenzio. Sharikov aveva cominciato a sentirsi a disagio. Urtando con la testa contro la parete, aveva emesso un suono tra la I e la IE, una sorta di IE. La faccia si era fatta pallida e la mascella aveva preso a muoversi convulsamente. «Date a questo mascalzone un secchio dall'ambulatorio!» E tutti avevano cominciato a correre prendendosi cura di Sharikov che si sentiva male. Quando lo portarono a letto, egli, barcollando tra le braccia di Bormental, imprecava con voce dolce e melodiosa, pronunciando a fatica le sue bestemmie. Tutta questa storia era avvenuta circa un'ora prima e adesso erano le 3 di notte. Ma i due uomini nello studio vegliavano, eccitati dal cognac con il limone. Avevano fumato al punto che il fumo si muoveva in lenti strati densi, quasi senza ondeggiare.